per fortuna riusciti a collegarci col compagno che si trova appunto davanti ai magazzini della Granarolo. Allora, ci siamo lasciati nel bel mezzo della carica, si fa per dire. Ci racconti che è successo? Pronto? Pronto? Scusami, pronto? C'è stato. Allora, ci racconti un po' che è successo dopo l'ultima volta che ci siamo sentiti? Sì, è stata la carica, siamo seduti per la terra, ha provato di caricare un'altra volta, ha cominciato a caricare, non è andato a botta, ha dato a botta soltanto per il lavoratore, siamo sbloccati, adesso facciamo un'assemblea, vertice siamo nel bilancio che lanciamo sul livello nazionale contro quel gruppo mafioso di Granarolo e la cooperativa del loro. Quindi insomma adesso... Avete smobilitato? Siamo sbloccati, adesso ha fatto un piccolo corteo tramite quel cancello o l'altro, circa un chilometro tra quel cancello e l'altro. Siamo adesso uniti, facciamo un'assemblea per decidiamo tutti insieme, i compagni, i lavoratori, che è il piano di lotta che famo e che deve fare contro Granarolo. Vuole che lanciamo sul piano nazionale con il ciobro generale selvaggio per tutta la logistica che era un ponte iniziale, su quella era la lotta di Granarolo durante i licenziamenti. Certo, senti, ci sono state conseguenze? C'è qualcuno che si è fatto male, che ha preso un po' di manganellate? No, ci hanno preso la botta così, stanno bene. Male. No? Nessun fermo? Sì, si è preso sulle spalle. Va bene. È stata una cosa, non è colpita proprio a testa o qualcosa, non è stata ferita, è stata comunque un male di braccio. Va bene, allora si fa per dire, insomma, comunque la mobilitazione c'è stata, abbiamo visto anche delle foto, insomma, su... Sì, adesso le facciamo l'assemblea, conclusione della giornata. Certo. Per c'ha tutti i compagni... De Padova sono venuti, certo. Fatto viaggio tutta la notte da Milano, a partire alle 1 di mattina, da Vicenza alle 2. C'ha le compagni di Napoli e licenziati del Fiat, è venuto oggi qua a Bologna per dare solidarietà sulla lotta di Granarolo, per Messia Bugliano, su una lotta ampia tra Fiat e lavoratori di Fiat che sono licenziati e quelli che ci hanno in cassa mobilizzazione di Umiliano a Napoli con collegamento con la lotta di cooperativa. Certo, almeno così uniamo tutti, certo. I due confronti, si coglie questa occasione insomma per discutere unico, tra varie situazioni, un amico l'ultimo. Va bene Nabil, allora risentirci presto, grazie, a presto, ciao. L'eventuale manifestazione oggi per i bambini di Gaza.